L'ultimo dei sette segreti di Bologna ci porta di fronte a Casa Isolani, situata al civico 19 di Strada Maggiore. L'edificio, caratterizzato da uno stile che coniuga il rigore romanico con le aspirazioni gotiche, è uno dei più significativi e rari esempi di architettura civile del XIII secolo presenti in città. Una suggestiva galleria, chiamata Corte Isolani, collega la casa all'altra residenza della famiglia, Palazzo Isolani, che si affaccia su Piazza Santo Stefano. Palazzo Isolani è stato realizzato tra il 1451 e il 1455 da Pagno di Lapo Portigiani da Fiesole, in uno stile ibrido, di passaggio, con elementi più moderni tipici del Rinascimento toscano, portico con archi a tutto sesto, colonne con capitelli corinzi, e altri caratteristici del gotico, come le finestre dagli archi a sesto acuto. Una curiosità. Al centro dei trafori che sovrastano le finestre sono presenti sei teste di terracotta, raffiguranti alcuni degli esponenti più significativi della famiglia. Inserite in medaglioni circolari, sono state attribuite per secoli allo stesso architetto che costruì il palazzo. Tuttavia, la quarta testa presenta un singolare anacronismo, indossando una parrucca tipicamente settecentesca. Si suppone quindi che siano stati effettuati dei ritocchi successivi alla facciata del palazzo, ma non esistono documenti al riguardo. Che si tratti davvero di uno dei casi più eclatanti di anacronismo della penisola italiana? Quella degli Isolani è un'antica famiglia senatoria bolognese, le cui prime notizie documentate risalgono al 1262, con la proclamazione di Gualtiero Insulanorum a dottore in legge. È possibile che il suo cognome, che tradotto letteralmente significa delle isole, derivi da una presunta discendenza da Enrico I di Lusingano, re di Cipro e d'Armenia, del quale potrebbe essere stato figlio illegittimo. La circostanza è dimostrata da una lettera, datata 18 dicembre 1414, in cui il re Giovanni Lusingano si rivolge al cardinale Giacomo Isolani chiamandolo cugino. Fu peraltro proprio il cardinale uno dei principali artefici del consolidamento della fortuna della famiglia, che grazie a lui ottenne dal papa il feudo di Minerbio, inclusa la Rocca, con il titolo di conti. In precedenza, a riprova della rapida ascesa in politica degli Isolani, già nel 300 abbiamo notizie di Isolano di Domenico, capitano delle truppe bolognesi, e di un esponente della famiglia che nel 1323 prestò del denaro al comune. Ma torniamo a Casa Isolani, in Strada Maggiore. Nel 1877 l'edificio venne acquistato e restaurato da tal Raffaele Faccioli, che aprì le porte ogivali al piano terra accanto alla maestosa porta originale dall'arco a sesto acuto e ripristinò le finestre secondo gli esempi antichi. Nel Novecento, poi, è stato eseguito un altro restauro volto a ripristinare le monofore, le bifore e gli archi delle botteghe. Ricordiamo che il portico di Casa Isolani è il più elevato portico in legno della città. È costituito da travi in quercia lunghe ben 9 metri poste a sostegno del terzo piano, affiancate da due colonne di mattoni che contribuiscono a mantenere la stabilità del complesso architettonico. A questo primato si affianca un'altra curiosa particolarità. Sul soffitto del portico sono infatti conficcate tre frecce. È questo il settimo segreto di Bologna. Per spiegare l'esistenza delle tre frecce esistono altrettante leggende. La prima vuole che un signorotto locale avesse incaricato tre sicari di uccidere la moglie Fedifraga. Costei, tuttavia, si sarebbe presentata alla finestra completamente nuda, distraendo i sicari, che sbagliarono clamorosamente mira, scagliando le frecce nel soffitto del portico. La seconda leggenda vuole che le tre frecce siano il lascito di un diverbio da strada di due nobiluomini e dei conseguenti colpi malamente assestati da ognuna delle parti, mentre la terza parla di uno scherzo goliardico ai danni del Faccioli. Un bel ricordino nell'edificio appena restaurato. La teoria del complotto.